Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Quando sono le 8:39 minuti, inizia una nuova puntata di Si può fare. Stiamo insieme fino alle 10, 800 24 00 24, per raggiungerci, per condividere con noi questa porzione di mattinata. Che parola, porzione. Alle 8:39 andrebbe vietato di utilizzare parole così. Per la fame complesse. Soprattutto, perché porzione mi viene subito in mente. Una monoporzione, due biscotti, una brioche. Carlo, Milano Monterosa. Sole. Spuntato il sole, già ieri è spuntato a un certo punto. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Cari ascoltatori, vogliamo stare con voi e anche indovinare un personaggio della settimana. Vi butto subito lì l'indizio, così cominciate ad aguzzare l'ingegno o a digitare qualcosa su Google News, se avete uno smartphone a disposizione. Ma non era vietato dal nostro regolamento andare su Google News? Non possiamo entrare nelle case degli italiani per verificare. Ogni strumento è valido. La nostra domanda in realtà è a prova di Google, possiamo dire così. Di solito diamo sì. Degli indizi, ecco. Allora, questo personaggio ha detto qualcosa di rivoluzionario. Quindi pensate a questa ultima settimana, pensate a qualcuno che ha detto qualcosa di rivoluzionario e stringete il cerchio, 800 24 00 24, chiamate, il primo che indovina si porta a casa i biglietti per la mostra di Basquiat, il grande writers americano, al Bel Mudec di Milano. Allora, voglio partire subito con una notiziola, che viene dall'Australia, dove l'Agenzia delle Entrate ha deciso di utilizzare i post su Facebook e su Instagram per stanare gli evasori. Occhio, perché se postate foto di macchine di lusso con le quali avete fatto le vacanze o alberghi di lusso, cose di questo genere, e siete nulla tenenti per il fisco, è chiaro che non siete proprio furbissimi. E comunque l'Australia ha aperto questa nuova strada e quindi si può fare anche questo, perché insomma gli evasori totali, quelli lì, vanno trovati, bisogna farli pagare anche loro la loro porzione di tasse, come è giusto. Bisogna trovare modi. Tra l'altro, Carlo, tu questa settimana hai fatto un video e hai detto la tua su questa cosa delle tasse. Sì, ho fatto un video che si intitola diciamo Italy for Italy, come se fosse un hashtag. Lo trovate sulla mia pagina Facebook, è un video di 4 minuti e mezzo, poi lo metterò anche sul mio canale YouTube, dove sostanzialmente dico: gli italiani sono bravissimi, appena succede una tragedia, qualunque cosa, ci chiedono un SMS e tutti siamo prontissimi a donare. Anzi, siamo veramente i più generosi del mondo, e quindi attenzione, perché adesso è scoppiata una epidemia di evasite, e nella forma più insidiosa, quella detta fiscale. È iniziata molti anni fa con casi singoli in ogni regione, ma poi ha cominciato a infettare tutti. L'evasite colpisce inizialmente i più ricchi, ma si allarga subito ai più stronzi, perché pare abbiano la pelle più sottile. E poi racconto la questione, diciamo, dell'evasione totale, e un po' mi chiedo, dico, va bene, allora, visto che siamo così generosi con gli SMS, paghiamo le tasse con un SMS. Se è questo il modo, se l'unico problema, diciamo, è quello. Poi in realtà è un video ironico, è più complesso, adesso non sto a spiegarlo tutto. Se volete, sempre, potete andare a vederlo. Si ride anche un po', ma si riflette. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Se volete commentare il video di Carlo, se volete commentare la notizia che arriva dall'Australia, Facebook e Instagram utilizzati per stanare gli evasori, oppure se volete indovinare il personaggio della settimana che ha detto qualcosa di rivoluzionario. Fidel, olé, olé, olé, olé. Parece el cagüete, pero Abbiamo deciso di salutare così Fidel Castro con la voce di Maradona, che in un video che fa parte del film che Custuris ha fatto su Maradona, parlando del suo rapporto con Fidel, nel quale Maradona si butta in una piscina e poi esce fuori urlando Fidel, Fidel, Fidel. Per lui era un mito, un secondo padre. Un secondo padre, ha detto. Sì. Adesso sì, è stata strana, curiosa questa relazione, questa amicizia tra due personaggi così distanti da tanti punti di vista. E però è vera una cosa: Cuba va vista, andrebbe vista nella prospettiva dell'America Latina. Cambia tutto. Io sono stato, perché l'ho visitata parecchie volte, posso raccontare questo mini episodio. Vai, giusto. Una scuola di Montevideo, entro dentro, una scuola italiana, c'era un cartello con scritto aiutate, di quelli che capita spesso di leggere nelle bacheche delle scuole: aiutiamo tutti insieme la piccola Linda, adesso non ricordo esattamente il nome, ha bisogno di fare un'operazione, deve curarsi per una rara malattia, solo col nostro aiuto potrà andare ad operarsi a Cuba. E dall'Uruguay a me stupì molto, perché non conoscevo la realtà sudamericana, che ci si potesse andare a curare a Cuba, perché questa cosa in Italia la faresti per la Svizzera, per la Francia, per gli Stati Uniti, cioè un paese più sviluppato di te. Noi pensavamo che non fosse così. Esatto, invece, e tra l'altro strapieno di eccellenze, invece è molto importante. Se oggi, questo bisogna dire, se Cuba è al 37esimo posto nella classifica sull'aspettativa di vita, cioè si vive più a lungo che negli Stati Uniti, che in Brasile, che in Argentina, tutto il continente americano, lo dobbiamo anche a quel sistema strano che aveva mille limiti, soprattutto dal punto di vista delle libertà civili, che non bisogna negare, perché non era una democrazia, c'era gente imprigionata, però era un sistema che aveva questo equilibrio. Però è molto giusto che dici che va visto nel contesto. Direi che è lo stesso problema nel quale è incorso Saviano, che ieri ha scritto un post su Castro definendolo semplicemente un dittatore che non realizzò mai niente. È scoppiato l'internet, come si suol dire, sì. Perché in realtà, diciamo, bollare Fidel Castro semplicemente come un dittatore, sì, quando è un pezzo di storia, no, quando solo, ma tutta la contrapposizione nei confronti degli Stati Uniti, quando l'isola di Cuba in realtà era un luogo in cui venivano semplicemente messi mafiosi americani, quindi qualcuno dice forse sono stati meglio attraverso Fidel. Poi Fidel, come hai detto giustamente tu, ha fatto anche cose terribili, ce lo ricordiamo tutti, tanto che lo stesso Saviano, dopo migliaia di commenti dove l'hanno massacrato, ha scritto un altro post invece dicendo che però Fidel in effetti aveva fatto anche delle cose buone. Se lo dici in America Latina, una cosa del genere ti prendono a schiaffi. Esatto. E va bene, comunque naturalmente vi aspettiamo, cari ascoltatori, per dire la vostra anche su questo. Se volete 800 24 00 24, Radio 24 serve anche a questo. È arrivato il momento delle informazioni sul Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ho deciso che farò la raccolta differenziata e perlomeno renderò più ecologica la mia giornata. Ho deciso che farò la raccolta differenziata e perlomeno renderò più ecologica la mia giornata. Voglio diventare un cittadino modello, solo l'essenziale eliminando il superfluo. Voglio ripulire questa giovine Italia, stanco del problema rifiuti della Campania. Allora, in Italia, quasi senza accorgersene, stiamo diventando un paese leader nella questione della raccolta differenziata dei rifiuti. Vengono a studiarci anche dall'America. Noi ce ne siamo accorti. Ne parliamo da anni. Diciamo, non siamo particolarmente svegli in tanti campi della nostra vita, ma su questo diciamo, abbiamo gli occhi concentrati. Allora, l'ultima notizia viene dal Veneto. Tu ricicli, io ti pago. Equa Azione è un progetto lanciato dalla Savno, l'azienda raccolta di rifiuti di un consorzio di comuni della zona. Ecco noi il presidente della Savno, Giacomo De Luca, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Allora, l'iniziativa Tu ricicli, io ti pago. Sentiamo spesso dire ci vorrebbero le tariffe puntuali, bisogna premiare i cittadini che più fanno la raccolta differenziata. In pochi lo fanno. Qua ci state provando. In che modo? Ma intanto noi abbiamo già la tariffa puntuale nei 44 comuni, tutti i 44 comuni della sinistra Piave. E abbiamo 305.000 abitanti e 15.000 aziende. Questo abbiamo pensato a fare anche qualche cos'altro. Abbiamo inventato sta macchina che ci permette ai cittadini di buttare le bottiglie di plastica invece che sulla strada o lasciarle in avanzare da qualche altra parte, che dopo noi dobbiamo passare con i nostri impiegati, con i nostri operai a prenderle, le buttano in questa macchina, però hanno anche un vantaggio, quindi le abbiamo agevolate. Intanto, una volta al mese, chi ha buttato dentro, chi risulta che ha buttato più bottigliette, la bolletta degli rifiuti non la paga più per quell'anno. Questa è una notizia incredibile. Lei la dice così di messo, ma in realtà non pagare una tassa è il concorso più bello del mondo. Se quel mese è il più riciclatore di tutti, ha la tari pagata per tutto l'anno, giusto? Certo, sì. Ma guardate che è un vantaggio anche per noi, perché il personale che mandiamo a raccogliere dopo i mercati, dopo le serate che si fanno a raccogliere, costano molto di più della bolletta che andiamo. Lo immaginavamo, certo. Lo immaginavamo, perché infatti, mi scusi, che non facciate beneficenza lo immaginavamo, ma no, non è questione di far beneficenza, è questione di aiutarci l'un con l'altro, giusto, sì. Ma perché mi scusi, le volevo chiedere questo sì. Funziona solo se il cittadino va di sua sponte con la bottiglia e la butta dentro questa macchina, giusto? Certo. E di queste macchine ce n'è una per comune, ce n'è una per strada? Intanto noi abbiamo 44 comuni, ne abbiamo provate sui primi tre, sui tre comuni più grossi. Sì. E quindi sì, il risultato da quanto speravamo, non avremo difficoltà a farlo su tutti i 44 comuni, anzi ci sono i comuni più piccoli, ma chiesto perché non noi. Tutti vogliono questa macchina, perché tutti vogliono il premio. Senta, Presidente, giustamente ci si domanda, ma come fate poi a sapere chi ha dato più bottiglie, chi ha consegnato più rifiuti di plastica? Perché naturalmente c'è un meccanismo, no? Spieghiamo. C'è un meccanismo. Intanto si butta dentro la bottiglia di plastica da una parte e il tappo da un'altra, perché sono due ricicli diversi. Due compattatori diversi, certo. Poi ci si registra col codice fiscale, basta anche la tessera sanitaria o qualche cos'altro, o la patente, basta registrare il codice fiscale, e questo va a caricare i punti automaticamente sulla persona. Sì, certo. Individuata tramite codice fiscale, quindi non si sbaglia. Poi se uno vuole regalare i punti alla fidanzata può farlo, mette il suo codice fiscale. Certo. Ma ci sarà tutto... Basta che lo iscriva oppure che mette... Assolutamente. Ma ci sarà tutto un mercato bellissimo di riciclatori, perché magari io ho le bottiglie ma non ho il tempo per andare fino lì, quindi per mezzo centesimo le vendo alla mia vicina che ci va lei. Le porti, è tutto tu. Virtuoso. Certo, beh, l'importante è che le bottiglie non vengano abbandonate. Esatto. Però le volevo di nuovo chiedere... Non solo quella cosa lì, abbiamo anche l'Ascotrade, che è la società che gestisce sempre nei nostri comuni, che gestisce la rete del gas nei nostri comuni, sì. Tutto quello che ogni bottiglietta che sarà introdotta in queste macchinette accrediterà nella bolletta del gas 0,01 centesimo. Beh, insomma, si comincia così piano piano. Mi dice solo una cifra, poi Carlo le vuole fare una domanda. La cifra è questa: quale perché uno potrebbe pensare che stiamo scherzando, ci stiamo divertendo di domenica mattina. Quale percentuale di raccolta differenziata avete raggiunto nei comuni? Noi superiamo di gran lunga l'80% su tutti i nostri comuni. Ecco, quindi per dare un'idea, stiamo su questo livello. Stiamo parlando di cose vere. La premiazione a Roma, alla prevenzione a Roma dei comuni riciclone d'Italia, fatta da Lega Ambiente, i nostri comuni fanno man basta. Ma senta, io le volevo semplicemente chiedere, visto che stiamo parlando di Conegliano, Vittorio Veneto e Oderzo, se in ogni di questi comuni ci sarà un'unica di queste macchine o più di una? No, per ora una, abbiamo appena cominciato, non cominciamo a lamentarci, ad allargarci, a montarci la testa. Beh, noi piace montarci la testa. Esatto. Molto bene. C'è un'altra cosa, però sì. Noi facciamo molto cose. Noi siamo stati i primi in Italia a essere certificati con la chiusura del cerchio, perché i nostri camion vanno con l'ecometano, il rifiuto umido che noi andiamo a raccogliere per tutte le famiglie, viene portato combustibile a chilometro zero, cioè sì, capite, sì, l'umido, sì, che loro raccolgono lo utilizzano e ci fate il biocombustibile, i camion vanno via con la cosa, quindi la chiusura del cerchio, ma è stupendo, non si sa se siete, esatto, non si sa se siete i più bravi del mondo o se siete anche molto tirchi, sto ovviamente scherzando. Certo, certo. Beh, è una leva che muove il mondo la tirchieria, sì, sì, è ben purtroppo. Presidente De Luca, grazie per essere stato con noi, complimenti. Complimenti. Tornate a in trasmissione ad aggiornarci sulle prossime iniziative sorprendenti di questo consorzio, di questa area del Veneto dove la raccolta dei rifiuti è diventato, che dire, una macchina da guerra, veramente. Ma bisogna essere abitanti, vero, di quel comune. Non è che io adesso vado, corro con questa mia bottiglietta che sto bevendo, la butto dentro perché magari riesco a vincere. Aspetta, vincere un attimo, Atari. C'è ancora il presidente? No. Sì, sì, sono ancora. Ecco, no, se volete avere la bolletta pagata, bisogna che sia l'utente nel nostro territorio. Ci ne vuole l'utenza sul territorio. Quindi niente turismo delle bottiglie. Niente turismo. Non si può fare. No, ma può essere invogliato qualcuno che la trovi in a prendere la residenza. Esatto, io vengo a prendere assolutamente la residenza, Vittorio Veneto. Va bene, grazie, dobbiamo chiudere. Buona domenica. Arrivederci, grazie a tutti. Questa era la situazione nei comuni del Veneto, Conegliano, ma sono tanti comuni amministrati dove la gestione dei rifiuti è amministrata dalla Savno. Allora, abbiamo gli ascoltatori in linea, ma non possiamo sentirli. Tiziano e Margherita, gli chiedo un po' di pazienza perché c'è il giornale radio, poi torniamo e cominceremo subito con loro. 800 24 00 24, stiamo cercando un personaggio della settimana che ha detto qualcosa di rivoluzionario. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed io, nella mia attività pubblica, ho soprattutto l'orgoglio di ricordare il trattato di pratica di mare nel 2002, qui vicino a Roma, quando con un anno di lavoro sui miei due amici, Bush da un lato e Putin dall'altro, li convinsi a far finire la guerra fredda. Altro che Fidel Castro, è stato Silvio Berlusconi a fare finire la guerra fredda, questo lo ha dichiarato qualche giorno fa, non se n'era accorto credo nessuno, ma lui ce l'ha voluto invece giustamente, ha voluto sottolinearlo perché era tra le cose che non mettevamo nel conto di Berlusconi, no, detto onestamente. Tante altre cose sì, questa no. È tornato Silvio Berlusconi, ha rilasciato alcune dichiarazioni, siamo in campagna elettorale per il referendum, argomento su cui noi non diremo una parola, assolutamente, perché altrimenti poi dovremmo dirne tante altre di segno uguale opposto. Ho detto assolutamente, senza poi aggiungere le due paroline magiche che oggi non si possono dire. Vi facciamo solo sentire alcune dichiarazioni. Continuiamo con Berlusconi. Pur essendo al limite della guerra civile l'un contro l'altro, De Gasperi e Togliatti riuscirono a trovare un compromesso alto e nobile e la Costituzione fu votata dall'80% dei padri costituenti. Noi dobbiamo necessariamente cercare la stessa cosa, perché la Costituzione è la legge delle leggi. Assolutamente indispensabile sedersi ad un tavolo per una nuova riforma costituzionale e per un cambiamento della legge elettorale. E va bene, questa è l'offerta di Berlusconi a Renzi dopo la sconfitta, lo aspetta come si aspetta i propri nemici sulla sponda del fiume. Bisognerebbe ricordare che questo tavolo c'è stato, perché il primo passaggio della riforma costituzionale fu votato anche dal Forza Italia di Silvio Berlusconi, poi però le carte sono cambiate, oggi siamo a questo. Sentiamo chi sentiamo? Grillo. Io se avessi 20 anni, adesso se avessi 20 anni, non so come reagirei. Qui non siamo, siamo oltre la dittatura, perché fosse una dittatura e si facesse riconoscere un Pinochet, un generale con le medaglie, che dice sono un dittatore, allora uno si organizza, diventa in clandestinità, fa il carbonaro, reagisce, fa delle cose. Qui siamo con un involucro di nulla, riempito di nulla, che sta svendendo il futuro di tuo figlio, di mio nipote, nipote, dei tuoi parenti, a delle multinazionali che verranno qua e prenderanno qualsiasi cosa. E questo, questo è Grillo, avercene di Fidel Castro, avercene di dittature, sembra quasi dire Grillo, almeno ti puoi scagliare contro, contro un nemico. Beh, ci si può scagliare comunque, forse è che lui sta dicendo l'unico modo per scagliarsi è votare 5 Stelle, non credo che sia l'unica reazione possibile. Allora, il nulla, però può uccidere il nulla, perché sentite qua la dichiarazione di questa settimana, se l'avesse detto Trump l'avrebbero crocifisso, ma lo dice Grillo. Questa gente sono serial killer, questi qui attraverso questo involucro che hanno riempito di cazzate! Stanno espropriando il futuro, ma io me ne frego del mio futuro, c'ho 70 anni, ma stanno espropriando e rubando il futuro di vostro figlio, di vostro nipote. Allora, abbiamo imparato che le cazzate possono uccidere, perché in questo involucro di cazzate ci stanno dentro i serial killer. Questa è la tesi di Grillo. Direi che possiamo solamente rispondere, le cazzate possono uccidere. Esatto. Allora, ascoltatori, abbiamo Tiziano da Rovigo, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Prego Tiziano, su cosa volevi intervenire? No, io volevo rispondere per la domanda del personaggio della settimana. Chi è? Sì. Chi è? Per me è Fidel Castro. Uh-huh. Vabbè, la notizia non te la chiediamo perché ce ne siamo accorti tutti che... Sì. Morto Fidel Castro a 90 anni. Siamo contenti che qualcuno abbia dato questa risposta, perché è evidente che fosse un trappolone, che il personaggio non fosse lui. Abbiamo anche decine di sms che dicono: ma è ovvio, è Fidel Castro, troppo facile, Fidel Castro. Infatti era troppo facile. Tiziano, grazie per esserti assunto questo onere di dare questa risposta, che evidentemente sarebbe stata facile, ma era giusto dirla, perché poteva tranquillamente essere qualcuno che ha detto. Però tranquillizziamo tutti, è facile lo stesso, non è che... Non si può dire, non si può perché dire, poi hai il ragione, notaio si arrabbia, hai lo ragione, sai. Hai ragione. Margherita da Genova. È pronta? Pronto, buongiorno Margherita, sì. Buongiorno. Dato che appunto Fidel Castro era ovvio, io pensavo al suo amico Che Guevara, che c'è stato tanto vicino a Fidel Castro. E qual è la notizia di questa settimana su Che Guevara? Che Guevara, perché era proprio un amico, perché di Fidel era amico Castro. Di Fidel Castro. Quindi la sì, però essere l'amico di un defunto non è sufficiente per avere una notizia. Diciamo, no, potremmo ma era amico non di essere tutte le loro rivoluzioni nel passare degli anni della sì. vita, da quando Fidel Castro ha deciso di diventare così, perché prima non era così severo. Poi è diventato perché qualche stato grosso l'ha fatto arrabbiare. Qualche stato grosso, molto, molto giusto. L'aiuto dicendo qualcosa e mi attirerò le ire di tutti. È che forse in questa settimana Fidel Castro e Che Guevara si sono rincontrati. Forse è questa la notizia. Ecco, è lì che voleva arrivare, Carlo. Vede, signora. Si un po' e metteranno a posto il mondo da lassù o da laggiù. Non lo so. Allora, però non era Che Guevara nemmeno la risposta giusta, cara Margherita da Genova. Anzi, grazie anche a te per aver chiamato e aver ricordato un rivoluzionario. Certo, ma non era lui. Allora, vogliamo dare un altro indizio a questo punto della mattinata? Possiamo darlo l'indizio? Certo che possiamo. Sì. Il nostro personaggio è un personaggio che divide. Che divide. Detto qualcosa di rivoluzionario ed è un personaggio che divide. Fulvio da Cinisello, e non è Fidel Castro, a questo punto lo diciamo. Lo diciamo, lo diciamo. Evitiamo telefonate inutili. Fulvio da Cinisello Balsamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io ho telefonato per quell'intervento che hanno fatto sul discorso della raccolta differenziata della plastica. Sì, l'intervista al presidente della Savno del Veneto. Sì, la... sì, esatto, una cosa molto, molto utile, anzi andrebbe incentivata e sparsa per tutti i comuni che intendono fare questo tipo di raccolta, anche perché nel privato ormai da anni io frequento per la spesa chiaramente un supermercato, posso dire il nome? Se vuoi, se Fulvio, se serve per il ragionamento, assolutamente. Certo, è l'UNES ha adottato questa campagna di raccolta differenziata della plastica, mettendo nei suoi centri questi grossi raccoglitori dove la gente può portare la bottiglia e gli viene riconosciuto un centesimo a bottiglia. sì, chiede addirittura di separare la raccolta della plastica dal tappo. Il tappo da una parte e la bottiglia dall'altra. Che, esatto, che è lo stesso che ci ha spiegato il presidente, perché anche in Veneto avviene così. No, vabbè, giusto Fulvio avere ricordato, perché ci sono tante iniziative sul territorio, io l'ho detto, quasi senza accorgersene l'Italia sta diventando leader nella gestione dei rifiuti con tante iniziative anche di fantasia, originali, questa lo è stata qualche anno fa quando è iniziata, adesso sicuramente non è una novità, c'è su tante zone d'Italia. Noi abbiamo raccontato quello spicchio di storia perché è inserita all'interno di uno sconto sulla bolletta della Tari, anzi addirittura uno sconto pari al 100% della bolletta, e a tante altre iniziative che danno il senso di quello che stanno facendo da quelle parti. Fulvio, grazie. Vuoi provare a dire il personaggio della settimana? Posso dirlo? Sì. Certo. Sì. Allora, per me è quell'imprenditore che è deceduto, che della Corona, che ha dato ai suoi dipendenti alcuni soldini, ai suoi abitanti di quel paese alcuni soldini. Allora, il nome dell'imprenditore non ce lo ricordiamo, vero Fulvio? Non me lo ricordo nemmeno io. Ok, però diciamo che non era questa la risposta. Questo lo sappiamo per certo. Lo sappiamo. Non è... grazie comunque per aver tentato, Fulvio, grazie per aver tentato. Prego. E ogni tanto queste storie ritornano, di questi imprenditori generosi. Non era questo il periodo, anche perché un imprenditore che regala una parte della sua eredità agli operai non credo che divida molto, no? No, è però interessante definirlo rivoluzionario. Sì, quello assolutamente. Traffico. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Questo ritmo è per voi. Questo ritmo è per voi. Questo ritmo è per voi. Coraggio. Coraggio. Coraggio. Questo è un posto selvaggio. Coraggio. Coraggio. Coraggio. Questo è un posto selvaggio. Miracolati e ciarlatani, star di domani, progettisti di blue jeans, creduloni di ogni razza e fede, ragazze madri, marziani fuori sede, scopritori dell'ovvio, parenti di re, arrampicatori di grondaie, bigliettai di zoo, spaccapietre e filosofi, ammaestratori di sirene, scavalcatori di confine, consolatori e consolatrici, annusatori di vinile, accordatori a orecchio, cacciatori di mostri marini, bambine e bambini, ex presidenti, miti viventi, aspiranti eroi, ballerine di breakdance, Sibille e Cassandre, divinità in parcheggio, miglioratori del peggio, fornai e genetisti, samurai e operai, butta fuori e DJ, questo ritmo è per voi, questo ritmo è per voi. Allora, è con noi Gabriele Romagnoli, direttore di Rai Sport, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, autore di un libro che si chiama Coraggio col punto esclamativo, abbiamo tutti molto bisogno di coraggio, Romagnoli. Direi soprattutto per arrivare in fondo a questa settimana, quando torneremo alle nostre vite normali, finita la campagna sul referendum, in fondo alla prossima. Sì, esatto, perché siamo alla prossima, vorremmo arrivare adesso al coraggio. Io associo questa cosa qua. Qualcuno ha scritto una biopsia della parola coraggio. Vogliamo partire da qua, una definizione del coraggio, Romagnoli? Io l'ho spaccettato il coraggio, nel senso che non ce n'è una definizione univoca, perché se no lo confondiamo con una visione eroica della vita, tant'è che il titolo al punto esclamativo, proprio perché vuole essere un'offerta di aiuto, quello che si dà alle persone che devono affrontare una prova, gli si dice coraggio. Diamocelo questo coraggio. Perché il coraggio non è quello di affrontare la straordinarietà, ma la ordinarietà, il coraggio di vivere la vita quotidiana e di viverla in maniera dignitosa, decente, di affrontare tutte le prove che si hanno davanti. Cioè, non serve il coraggio per buttarsi in mare, serve il coraggio per camminare sulla terra. E questo mi sembra già uno dei punti fondamentali di questo libro, cioè non, che il coraggio non visto come visione eroica, ma come ciò che dobbiamo avere tutti, se no è impossibile, perché se no diventa sempre un po' questa visione di un'unicità, di ci sono degli eroi. Bravo lui che ha avuto coraggio, esatto, ma noi no, siamo persone sembra normali. Sembra un po' la versione lunga della frase di Brecht che diceva: triste quel paese che ha bisogno di eroi. Sì, ma infatti io non sto parlando di persone a cui si intitolano le piazze, ma di quelli che l'attraversano la piazza, no? Perché esatto. Quello che si è perso è proprio l'idea che si debba aspirare ad essere migliore. Cioè, io penso che tutti da bambini in un cortile leggevamo storie di persone giuste e volevamo essere quelli, poi non so cosa sia successo strada facendo e si sono accettati altri modelli. Avevamo Falcone e poi è sbucato Fabrizio Corona, non so quando. Siamo distratti un attimo, lo spazio è stato occupato. La domanda è giusta però, noi lo chiediamo a lei, che cosa è successo? Perché quello forse è la cosa da indagare. È successo, secondo me, che non ho verità in tasca, è successo che c'è stata un po' troppa condiscendenza per quello che si è e si è cancellata l'aspirazione a quello che si dovrebbe essere. Alla fine è come Don Abbondio, dice: ma io coraggio non ce l'ho, mica me lo posso dare, è troppo facile così, no? Giusto. Sono nato in questa maniera, allora tutti cercano di curarsi, se hai una malattia te la curi, no? E allora anche quella di essere imperfetti moralmente è curabile, non è che devi accettarla così. Allora proprio per questo ho cercato di collezionare esempi dall'ordinario. Sono storie molto belle, no? Tutte, alcune un po' più note, tipo quella di Eric Abidal, il calciatore francese del Barcellona, altre assolutamente meno note, piccole o grandi storie però che attraversano il passato o anche passato recente, come la storia di Ludo che è morto facendo scudo di una ragazza al Café Belle Equipe durante gli attentati del 13 novembre scorso a Parigi. Vogliamo raccontare qualcuna di queste storie per dare una visualizzazione anche di cosa stiamo parlando quando parliamo di coraggio? Ma è uno strano cast quello che ho messo insieme, perché siccome io sono uno che ha vissuto e nel frattempo leggeva, andava al cinema e ha un po' confuso tutto questo, nel senso che nel mio pantheon ci sono le persone che ho incontrato, quelle di cui la storia ci ha riportato, ma personaggi anche di film, quelle anche, che ho visto al cinema e quelli che ho letto nei libri, per cui finiscono per essere un po' tutti insieme, quindi si va dal generale della Rovere, che è un personaggio cinematografico, a Fantozzi. Allora, ecco, per fare proprio un esempio che tutti possono capire, Fantozzi, che uno dice: ma Fantozzi è il massimo della vigliaccheria, però Fantozzi è quello che si ribella alla ideologia, l'unica sopravvissuta dopo la caduta dei muri, che è l'aziendalismo. Sì. Oggi tutti possono parlare male del presidente, ma nessuno osa parlare male del suo presidente, quello della sua azienda o del suo... E quando Fantozzi rompe questo muro di omertà dicendo la famosa frase sulla corazzata Potemkin, è un esempio di coraggio, un esempio anche quello. Possiamo ricordare la frase, perché magari qualcuno tra i più giovani potrebbe non aver visto il alla film. Alla decima proiezione prende il microfono e sbotta dicendo la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca. Seguono 55 minuti di applausi. Assolutamente. Però quella è come dire l'imperatore nudo, corre sempre un bambino o un matto per dire cose che tutti pensiamo, ma che per conformismo, che è un'altra antitesi del coraggio, il conformismo, perché ci vuole coraggio anche a pensare con la propria testa, ed è una delle cose minime che compongono questa definizione di coraggio. Allora continuate a pensare con la vostra testa. Giusto, ma invece la storia di Antonio Sacco gliela possiamo chiedere o rischiamo di fare uno spoiler del libro? Perché sappiamo che in realtà è un po' il filo conduttore. È vero, però cioè, diciamo che la posso rivelare senza rivelarla, nel senso perfetto. Che la storia di Antonio Sacco in realtà ha questa forza. Cioè, il motivo che mi spinge a scrivere questo libro è che un giorno mi viene regalata questa medaglia, che era un cimelio di famiglia e stava in questa famiglia da 80 anni, ed era una medaglia al valore data a un uomo ovviamente scomparso, data nel 1936, stessa data più o meno della sua morte. problema è che nemmeno la famiglia di quest'uomo sapeva, perché era passato di generazione in generazione, perché gliel'avessero dato. Quest'uomo diceva in Francia una medaglia al valore. E allora a me viene da pensare che gli atti di coraggio, gli esempi, possono essere così facilmente dimenticati, cioè che finiscono in un cassetto, chiusi lì, c'è una medaglia ma non sappiamo perché, e non si va a cercare, fosse stata una cosa di un altro tipo di valore, forse sarebbe stata una grande ricerca, se era un titolo di una proprietà di una miniera, invece sono medaglie al valore, nessuno la cerca. Loro ho fatto una indagine per un uomo che era scomparso nel 1936 per capire che cosa avesse fatto, quindi sono andato in Francia e ho capito che nella vita di quest'uomo, in realtà al di là di quell'ultimo per cui aveva avuto la medaglia, c'era sempre stata una tendenza a fare cose controcorrente e di coraggio, quale andarsene del suo paese, l'Italia, perché aveva un padre particolarmente violento, allora molto spesso i figli di un padre violento non trovano di meglio che diventare a loro volta dei padri violenti. Invece quest'uomo se n'era andato, è andato in Francia, aveva condotto una vita difficile, perché essere un immigrato in Francia negli anni 30 è come oggi essere un ucraino in Italia, e al culmine di questa vita, in un momento che poteva per lui diventare felice, si era sacrificato per salvare un altro essere vivente. Allora l'idea che tutto questo fosse stato dimenticato è un po' l'idea come quando passiamo in una strada, c'è un nome ma non sappiamo nemmeno perché la strada in cui abitiamo è intitolata a quella persona. E andiamo a leggere sotto, infatti, no? E esatto, scopriamo musicista. Sì, poi non sappiamo che cosa abbia mai composto. Ecco, forse io non sono un fanatico né della storia né della memoria, proprio perché spesso non ci insegnano niente. Però trattenere invece quello che può essere esemplare, perché appunto questo è il concetto, che si può diventare migliori, coraggiosi, altri. L'unico modo per convincere le persone queste è portargli degli esempi. Le storie, per secondo me, sono gli esempi migliori, come si fa con i bambini, quando non capiscono. Fammi un esempio, perché non sto capendo. L'esempio è la storia di un altro. A me per esempio è venuta voglia di vedere il film sul il generale Dalla Rovere, un film che credo abbia vinto ex aequo un premio con un altro film diventato molto molto più famoso, che credo sia La Grande Guerra di Monicelli, un film rimasto un po' nel cono d'ombra, ma con questo personaggio interpretato da Vittorio De Sica, che da personaggio un po' come Fantozzi, ma ancora più negativo, codardo, un vigliacco molto negativo, a un certo punto quasi come un miracolo si trasforma e diventa una persona che si dà questo coraggio. Io questo film a questo punto lo devo vedere, Romagnoli. Non so dove si troverà, però. Sai perché è stato trascurato questo film? Perché il cialtrone, quando si trasforma e va a morire davanti al plotone di esecuzione nazista, non lo fa perché aderisce improvvisamente alla causa della resistenza, lo fa perché ha visto altri uomini dimostrare questa forma di coraggio e vuole essere come loro, ma non sposa la causa. Quindi la critica dell'epoca disse: ma vabbè, questo però non è diventato un partigiano. Non c'erano motivavazioni sufficientemente nobili. Ma il coraggio è quella cosa lì, certo. Non lascia stare la motivazione, conta quello che fai. Certo. La storia di Schindler. Schindler è una persona orrenda, prima di fare la lista, centinaia di ebrei. E la cosa meravigliosa è proprio quello, che a un certo punto ti sbuca un istinto che va controcorrente rispetto alla tua stessa vita. E quello è il mistero che fa pensare a volte perfino che dentro l'uomo il nocciolo duro sia migliore del resto della sua vita. E allora, cari ascoltatori, leggetelo, Coraggio col punto esclamativo di Gabriele Romagnoli, un breve ma intenso viaggio in questa particolare condizione della vita umana, quasi direi, che è il coraggio. Edito Feltrinelli. Grazie e buona domenica. Grazie mille, buona domenica. Potevamo noi non parlare di un libro che si intitola Coraggio, e quindi allora, cari, sì, tra l'altro è molto si può fare, sì, perché si intitola Coraggio, ma parla anche di storie di persone o dimenticate o che hanno fatto atti che magari apparentemente sembrano piccoli e poi invece sono fondamentali. Ci sono anche storie che intrecciano lo sport, visto che Romagnoli adesso è direttore di Rai Sport, come la storia di Abidal. Si parla di Madre Teresa, si parla di anche però di piccole storie che in qualche modo riguardano tutti noi. Allora, possiamo dire, dico un'unica cosa stupida, sì? Possiamo dire che è praticamente un elenco dei nostri personaggi della settimana, sono tutte persone che se fosse se avessero agito nella settimana precedente si può fare, sarebbero sicuramente diventati il nostro personaggio che stiamo ancora cercando. 800 24 00 24, un personaggio abbiamo detto che ha fatto qualcosa di rivoluzionario e che divide. Facciamo gli ascoltatori adesso o dopo il traffico? Dopo il traffico non c'è, dopo la pubblicità. Sentirsi con papà senza santi da pregare si può fare, ed avere tanti soldi da poterseli rubare si può fare. Allora, ascoltatori, da Trieste chiama il signor, io credo che sia Nereo, anche se mi avete scritto Mereo, ce lo dica lei come sì, si chiama? Sì, sono Nereo. Nereo con la N, buongiorno. Perfetto. Con la N. Come Rocco, come il grande Rocco, che era pure come triestino. Come grande Rocco, e vivo a Trieste. Bravo, come lui, va bene. Allora, fin qua ci siamo, poi? E poi, niente... se vuole le posso dare la risposta. Non certo, so. siamo qua tutto orecchi. Allora, non sapevo che ci fosse un involucro di cazzate, come ha detto Grillo. E poi non pensavo di diventare un serial killer per andare a fare un referendum. Sì. Tutto qua. Questo è il mio pensiero. Quindi lei ma il personaggio che ci voleva sottoporre era... Beppe Grillo ha unito le notizie di cui pure noi abbiamo parlato di questa settimana con il personaggio e ha fatto la sua certamente ha fatto la sua sintesi ed è arrivato a Beppe Grillo. È una sintesi che ci piace, ma non è la risposta però corretta. Noi abbiamo fatto una sintesi un po' diversa e quindi non avevamo pensato a Beppe Grillo. Grazie comunque, grazie. Nereo, grazie a voi ragazzi, avere anche così con leggera ironia commentato le notizie della settimana. Del resto il personaggio serve anche a questo, eh? Edgardo da Monza. Sì. Prego. Buongiorno. Io ho pensato a Trump. Donald Trump. Beh, le notizie abbondano su Trump di questi tempi. Divide molto e ho pensato proprio lui. Sono curioso di sapere che tipo di rivoluzione sta organizzando. Al suo interno dello establishment, diciamo così, via. Sì. Sta un po' scuotendo l'America, il Partito Repubblicano, l'ha scosso molto in campagna elettorale, adesso sembra un po' meno, però Edgardo, ci stava tutta la risposta. Ma non è il personaggio che abbiamo scelto, ma grazie ad aver ricordato la notizia. Continuate a chiamare 800 24 00 24. Get up, stand up, stand up for your right. Allora, si può fare, va in trasferta nel mondo, in Turchia in particolare. Quando si sfiora una brutta storia, ci si avvicina a una possibile brutta notizia, non si sa se felicitarsi per la scampato pericolo o invece essere sempre preoccupati per quello che poteva succedere. Soprattutto capire se il fatto che non avvenga una brutta notizia in realtà sia un si può fare, sia un'ottima notizia, come stai giustamente dicendo. E noi ce lo chiediamo questa tu. Mattina, perché la notizia è questa: spose bambine, la Turchia rivedrà la legge sul perdono agli stupratori, una legge che sembrava dovesse essere approvata, poi invece per fortuna non è andata così. È con noi da Istanbul in collegamento Marco Barbonaglia. Buongiorno Marco, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Collega che vive nella città da un po' di tempo e la racconta per Radio 24, ma anche per altre testate in Italia. Allora, in Turchia capita spesso di sfiorare delle notizie così, no? Che fanno preoccupare tutti che da fuori, che guardano, eccetera, eccetera. Raccontaci intanto come stava per entrare in vigore questa legge, di che si tratta? Ma questa è una legge che è stata proposta nell'ultima sessione, tra l'altro, della parlamentare, quindi anche con una sorta di, non dico trucco, ma insomma un po' di astuzia, dall'ex ministro per i rapporti con il Parlamento, l'attuale ministro della giustizia Bekir Bozdağ, che ha proposto questo disegno di legge. Normalmente in Turchia al momento la legge prevede che qualsiasi rapporto sessuale con un minore di 17 anni sia punito, sui 16 anni c'è un intervento della Corte, al di sotto dei 16 anni, quindi da 15 anni in giù, è automaticamente è punibile automaticamente, con condanne che vanno dai 12 ai 18 anni di galera. Questa legge voleva in qualche modo, diciamo, consentire dei matrimoni al di sotto della legge permessa, ma con questi matrimoni avrebbe consentito quello che oggi sono delle violenze sessuali, perché l'opposizione ha immediatamente attaccato il governo dicendo in questo modo, permettendo matrimoni a età inferiori, quindi dei 15 anni, si permetterebbe una persona che violenta una bambina di 11-12 anni, poi la sposa, ha una sorta di amnistia. Il governo si è difeso dicendo, il governo, una parte poi del governo in realtà ha parlato di queste cose, in particolare il ministro Bozdağ ha difeso, ha detto no, ci sono 3.000 casi, effettivamente ci sono in Turchia, ci sono dei figli e vogliamo tutelare i bambini, perché nel momento in cui il padre viene arrestato c'è anche un problema economico. Loro si sono difesi dicendo che va valutato qualora ci sia consenso, che non vogliono proteggere gli abusi sessuali, ma l'accusa che è stata immediatamente mossa, diciamo, da tutti, da tutte le associazioni, dall'opposizione, è stata che tipo di consenso ci può essere in un caso del genere, che tipo di consenso, certo, può avere una ragazzina di 12 anni che ha avuto un figlio da qualcuno che l'ha stuprata, stiamo parlando di questo? Esatto, esatto. Anche il punto è che è comunque uno stupro, e questo anche se c'è un matrimonio obbligato, questo è quello che hanno detto le opposizioni, cioè non è importanza andare a vedere, il governo si è approvato a difendersi, parte del governo appunto dicendo che era personale una situazione preesistente, ma c'è stata una fortissima reazione in Turchia sia dell'opposizione, sia di associazioni femminili, sia di persone che hanno cominciato a scendere in piazza a migliaia. E qui si è arrivati poi in qualche modo a questa retromarcia e a questa legge che poi non c'è stata, non ci sarà, sì, questo ce lo confermi, no? Ecco, certamente. In tutta questa storia noi abbiamo visto una specie di luce, una luce strana, anche questa da decifrare, perché tra gli oppositori a questa legge le associazioni, per esempio per la donna e la democrazia, CADEM, di cui ci risulta essere vicepresidente la figlia niente meno che di Erdogan, che cioè si sarebbe opposta in qualche modo a un provvedimento del governo del padre, è così? Certo, è così. Non un provvedimento del padre, il padre non ha mai preso posizione su questa, l'ha presa alla fine, e quando ha preso posizione Erdogan è stato per dire che la legge così non andava bene, e in quel momento, il giorno dopo, la legge è stata immediatamente ritirata. In Turchia funziona così, se Erdogan dice che la legge non va bene, poi la legge non va bene. Normalmente quando Erdogan mette la parola fine a qualcosa, quella cosa finisce, diciamo, in Turchia. In questo caso è stato sicuramente un intervento positivo, perché nel governo stavano litigando varie parti del governo su questa cosa, a quel punto Erdogan ha detto ci vuole un largo consenso, bisogna ascoltare le critiche di tutti, poi stava anche sfuggendo un po' di mano alla situazione, Erdogan è un politico in gamba, quindi non poteva permettere che il partito si spacca, oltretutto su una cosa che serve anche a poco al suo partito politicamente e che era una pessima figura ovviamente, anche a livello internazionale. Ma la figlia, sì, lì si è capito che insomma questa legge non stava andando molto bene, che è intervenuta già sabato, la polemica è durata da giovedì fino a martedì dopo, quando poi la legge è stata ritirata, la figlia è da venerdì, giovedì sera è stata approvata, la figlia è intervenuta la CADEM, appunto, come hai propriamente detto, che la vicepresidente di CADEM è Sümeyye Erdoğan, quindi figlia, peraltro nota per un carattere molto forte, la figlia, per intenderci, che si è sposata questa primavera con il matrimonio da 6.000 invitati, sì, con, certo, da Udor come suo testimone, il capo di stato maggiore come testimone del marito, l'imprenditore Seljuk Bayraktar, fabbricante di droni. Lei ha studiato negli Stati Uniti, ha un master in Inghilterra e è un personaggio molto, molto forte, si è fatta sentire, è stata ricevuta dal primo ministro, tra gli altri ha fatto notare ciò che non andava in questa legge, e dopo ci sono state anche altre donne che sono state poi ricevute sempre dal primo ministro dell'HPP, quindi del partito di governo, che hanno contestato questa legge. Secondo una famosa editorialista del Riet, quotidiano laico turco, è la prima volta che delle donne dell'HPP, partito di maggioranza, si schierano compatte, scendono in campo in qualche modo per contestare quello questo che hanno fatto di buono. Vado a sintesi, perché seguo il tuo ragionamento. È come dire, il partito di maggioranza, il partito di Erdogan, il partito che viene accusato nel mondo di fare le scelte più conservatori, questa volta trova al suo interno le energie e le risorse mentali delle donne che si oppongono a questa deriva conservatrice. La figlia di Erdogan, che va in giro con il velo sulla testa, non un velo integrale ma un velo parziale, è la rappresentazione vivente di questo. Non immaginiamoci una donna che vive troppo all'occidentale. Lei è una donna che segue i precetti della religione islamica, però ha leggi di questo tipo che ci farebbero tornare indietro di secoli, dice no, e questo è un momento di svolta, forse per la Turchia, anche, lo dico io. Anche se, attenzione, certo che le donne della famiglia Erdogan sono tutte molto attive, lavorano tutte, hanno ruoli di grande responsabilità a livello imprenditoriale, la figlia Erdogan è anche attiva in politica in vari modi, e Erdogan stesso ha detto recentemente che ha fatto un discorso dove ha detto che le donne nell'Islam non devono stare in casa, non devono essere relegate in casa e non fare nulla, e che anzi questo fa fare brutta figura ai musulmani nel mondo. Certo, fa un po' strano vedere che l'unico oppositore a Erdogan sia sua figlia, perché la cosa che fanno, mi chiedo un po', famiglia. Cioè quello che mi sto un po' chiedendo, sicuramente da ignorante sulla situazione, come lo siamo un po' tutti, perché non capiamo le notizie che arrivano dalla Turchia, in un momento in cui Erdogan sta arrestando oppositori così a gruppi di migliaia, e invece ci si preoccupa di andare in piazza per questa legge, e in questo caso sembra possibile, cioè sembra quasi che ci sia una democrazia possibile, nel senso che si va in piazza, si protesta contro questa legge, effettivamente la legge viene bloccata. Cosa sta accadendo? L'impressione che ho avuto io è che in Turchia, il modo di vivere di gran parte della Turchia, in questo caso di grandissima parte della Turchia, ma probabilmente anche di tanti elettori di Erdogan, questo tipo, un tipo di legge così non è accettabile. E quindi, oltre alla figlia che si è schierata, essendo una donna, contro una legge che poteva portare, come abbiamo visto, al di là della tentativa di giustificazione della parte del governo che l'ha presentato, che era anche abbastanza... ma riuscito, ecco, c'è una parte della Turchia che non era proprio disposta, quindi la gente, oltretutto, oltre alla figlia di Erdogan, che certamente a livello politico ha creato dei problemi a portare avanti qualcosa in netta contrapposizione a lei, però nel frattempo in piazza scendevano moltissime persone, stava diventando molto grossa questa cosa, non tanto perché dall'estero venivano criticati, perché la Turchia delle critiche dall'estero può anche... Direi che non se ne occupa molto. Esatto, ma sul fronte interno stava sfuggendo di mano la situazione, questo sicuramente, molta gente sembrava assolutamente non intenzionata ad accettare una cosa di questo tipo. Bene, dobbiamo chiudere perché abbiamo il traffico, le informazioni sul traffico, poi fra un po' chiuderemo proprio il programma. Grazie Marco Barbonaglia per questo e per tutti gli altri racconti. Credetemi, non è facile da Istanbul in questa situazione. C'è stato il colpo di Stato, c'è un governo. Avremmo voluto parlare anche del tentativo di riforma della Costituzione, di cui pure si parla. Fanno un referendum? Fanno un referendum anche loro. Non c'è il tempo, però, quindi grazie. Ci fermiamo. Il traffico, poi torniamo. Personaggio della settimana, è un personaggio che divide e che ha detto cose rivoluzionarie. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. Potrai correre il sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Gianluca da Modena, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, mi sentite? Buongiorno. Sì, forte e chiaro. Abbiamo sentito un clacson in realtà. Sono in treno, per quello si sentono un po' di rumori strani. Ah, perfetto, perfetto. Adesso va bene, prego. Niente, io rispondevo al quiz dicendo Papa Bergoglio per la scelta di invitare i parroci a perdonare per la prima volta le donne che abortiscono e anche i medici che praticano aborti. E dall'applauso, bravo, dall'applauso si capisce che il personaggio era quello, e la notizia pure legata al personaggio era esattamente questa del perdono. La facoltà di perdonare, l'introduzione proprio nel diritto canonico di questa possibilità di perdonare le donne che hanno abortito e i medici anche, è una svolta in qualche modo nella Chiesa. Non è ancora entrato nel diritto canonico, deve entrare, è una proposta che entrerà, esatto. Che entrerà, certo, tu dici genere. Proposta dal Papa, è facile che poi ce la faccia. È facile, è un po' come la figlia di Erdogan. Esatto. Che poi Erdogan cambi idea. 800 24 00 24. Siamo però in chiusura di trasmissione, quindi non c'è più spazio, credo, questa mattina per intervenire, ma c'è ancora spazio invece per una notizia che riguarda Firenze. Separe, por favor. Todo el tiempo que perdí, no lo voy a repetir. No quiero ser igual a lo que fui. No miro más. Io credo di non averlo mai fatto. Tu l'hai fatto? L'hai mai fatto? Che di cosa stiamo parlando? Il graffito selvaggio sul monumento. No, no. No, neanche tu. Siamo tutti e due bravi ragazzi. Ma perché non so scrivere? Però è una pratica molto diffusa a Firenze. Ma antica, peraltro, però. Antica, questa è la cosa antica. Interessante, perché scrivere il proprio nome poi di fianco l'anno è una cosa che risale. Sono state ritrovate delle iscrizioni che risalgono al 500 e al 600. Bando alle ciance, è con noi il presidente dell'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze, Franco Lucchesi. Buongiorno. Buongiorno. Per una Buongiorno. Ottima iniziativa, perché a Firenze, al campanile di Giotto, questo problema dei graffiti l'avete risolto in una maniera originale. Purtroppo non abbiamo molto tempo per raccontarla. Avete scelto le nuove tecnologie, vi siete affidati a questo e i graffiti sono calati. Beh, sono quasi praticamente scomparsi, perché nell'arco di 8 mesi ne abbiamo trovate soltanto 7, mentre le scale che portano in cima al campanile erano completamente piene di scritte. Piene. Adesso da qualche parte dentro il campanile si trova un tablet nel quale ognuno può fare quello che vuole. Sono due tablet che si trovano sulle piattaforme intermedie del campanile, e su questo tablet si possono scegliere gli strumenti e i materiali su cui scrivere quello che si sarebbe voluto scrivere sulle scale. E le persone hanno risposto bene, cioè lasciano il graffito sul tablet invece che sul muro. Ti amo Maria. Esattamente, in 8 mesi abbiamo raccolto 15.600 scritte. E poi le pubblicate? Ne abbiamo già pubblicate le prime 10.000. Ogni 10.000 vengono pubblicate in un volume che verrà conservato per sempre nell'archivio dell'Opera del Duomo. Questa mi sembra l'idea, la parte straordinaria dell'idea, sempre. Perché comunque si scrive sul muro per lasciare per un pezzo di sé sul mondo anche dopo la propria dipartita. Quindi nel momento che è proprio Firenze stessa che assicura noi queste le conserveremo per sempre, forse avete trovato il modo giusto. Complimenti Lucchesi, grande iniziativa. Alle reazioni parrebbe di sì. Autografi, credo che sia il nome che avete scelto per questa iniziativa. Complimenti. Credo che sarà replicata sicuramente anche altrove. Purtroppo dobbiamo chiudere, sarebbe stato bello a leggere alcune di queste iscrizioni. Lo faremo un'altra volta. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo. Ciao da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini. Grazie ad Andrea Piana, Lorenzo Nespoli e Paolo Corleone. Ciao.